Cari fratelli e sorelle, dopo la pausa degli esercizi spirituali settimana scorsa, ritorniamo oggi alla grande figura di Sant'Agostino, sul quale avevo già parlato in 3 catechesi di mercoledì. Agostino è il padre della Chiesa che ha lasciato il maggior numero di opere e di questi vorrei oggi un po' parlare. Alcuni degli scritti di Sant'Agostino sono di importanza capitale e non solo per la storia del cristianesimo, ma per la formazione di tutta la cultura occidentale. L'esempio più chiaro sono le Confessiones, senza dubbio uno dei libri dell'antichità cristiana tuttora più letti. Come diversi padri della Chiesa dei primi secoli, ma in misura incomparabilmente più vasta, anche il Vescovo di Ipona ha infatti esercitato un influsso esteso e persistente, come appare già dalla sovrabbondante tradizione manoscritta delle sue opere, che sono davvero moltissime. Pochi anni prima della sua morte, Agostino passò in rassegna tutto quanto aveva scritto e ha scritto cosiddette retrattazioni, dove ha corretto in quanto gli sembrava, dalla prospettiva della sua vita, da correggere, e confermato quanto ha da confermare. E poco dopo la sua morte, questi scritti suoi erano accuratamente registrati in un elenco scritto dal suo fedele amico Possidio come aggiunto alla sua biografia di Sant'Agostino. Questo elenco delle opere di Agostino fu realizzato con l'intento esplicito di salvaguardarne la memoria mentre l'invasione vandala dilagava in tutta l'Africa romana e conta ben 1030 scritti numerati dal loro autore, con altri, scrive Possidio, che non si possono numerare perché non vi ha posto nessun numero. Vescovo di una città vicina, Possidio dettava queste parole proprie a Ippona, dove si era rifugiato e dove aveva assistito alla morte dell'amico. E quasi sicuramente si basava sul catalogo della biblioteca personale di Agostino. Oggi sono oltre 300 le lettere sopravvissute del Vescovo di Ipona e quasi 600 le omilie, ma queste in origine erano molto di più, forse addirittura 3.000 o 4.000. frutto di un quarantennio di predicazione dell'antico retore che aveva deciso di seguire Gesù e di parlare non più ai grandi del corte imperiale, ma alla semplice popolazione di Ipona. E ancora in anni recenti, le scoperte di un gruppo di lettere di alcune omilie hanno arricchito la nostra conoscenza di questo grande padre della Chiesa. Molti libri, scrive il già citato Possidio, molti libri furono da lui composti e pubblicati, molte prediche furono tenute in chiesa, trascritte e corrette, sia per confutare i diversi eretici, sia per interpretare le sacre scritture ad edificazione dei santi figli della Chiesa. Queste opere, ci dice sempre Possidio, sono tante che ha stento uno studioso alla possibilità di leggerle ed imparare a conoscerle. La produzione letteraria di Agostino, quindi più di 1.000 pubblicazioni, è suddivisa in scritti filosofici, apologetici, dottrinali, morali, monastici, esegetici, antieretici, oltre appunto le lettere e le omilie. Tra questi scritti spiccano alcune opere eccezionali di grande respiro teologico e filosofico. Innanzitutto bisogna ricordare le già menzionate Confessiones, scritte in 13 libri tra il 397 e il 400 a lode di Dio, sono una specie di autobiografia, ma autobiografia nella forma di un dialogo con Dio. E questo genere letterario riflette proprio la vita di Sant'Agostino, che era una vita non in sé chiusa e non una vita dispersa in tante cose, ma sostanzialmente una vita vissuta come dialogo con Dio e che sia una vita per gli altri. Cioè il titolo Confessiones indica la specificità di questa autobiografia. Questa parola confessiones nel latino cristiano, sviluppato dalla traduzione dei Salmi, ha due significati che si intrecciano tuttavia. Confessiones indica in prima linea confessio, cioè confessione delle proprie debolezze, della miseria proprio dei peccati, ma nello stesso tempo confessione significa lode di Dio, riconoscimento a Dio, il vedere della propria miseria nella luce di Dio diventa lode di Dio e ringraziamento perché Dio ci ama e ci accetta e trasforma, ci eleva a se stesso. Su questi confessioni, che erano un grande successo durante la vita di Sant'Agostino, lui stesso ha scritto: le mie confessioni hanno esercitato su di me tale azione mentre le scrivevo e le esercitano ancora quando le rilego, e vi sono molti fratelli ai quali queste opere piacciono. E devo dire che io sono uno di questi fratelli. Grazie a queste confessioni possiamo seguire passo passo il cammino interiore di quest'uomo straordinario e appassionato di Dio. Meno diffuse, ma non meno originali e molto importanti sono poi le anche già menzionate retractationes, composte in due libri intorno al 427, nelle quali Sant'Agostino, ormai anziano, compie un'opera di revisione, retractatio, di tutta la sua opera scritta, lasciando così un documento letterario singolare e preziosissimo, ma anche un insegnamento di sincerità e di umiltà intellettuale. Poi l'opera più importante e decisiva per lo sviluppo del pensiero politico occidentale e per la teologia cristiana della storia è il libro De Civitate Dei, scritto tra 413 e 426 in 22 libri progressiva pubblicati. E l'occasione era il sacco di Roma messo dai Goti nel 410, e qui i tanti pagani ancora viventi, ma anche molti cristiani, hanno detto: Roma è caduta, adesso i dei, il Dio cristiano e gli apostoli non potevano proteggere la città. Durante la presenza dei divinità pagane Roma era caput mundi, la grande capitale, nessuno poteva pensare che potrebbe cadere nelle mani dei nemici. Adesso, con il Dio cristiano, non è più sicura questa grande città. Quindi il Dio dei cristiani non protegge, non può essere il Dio al quale possiamo affidarci. A questa obiezione, che toccava profondamente anche i cuori di cristiani, risponde Sant'Agostino con questa grandiosa opera di Civitate Dei, chiarendo che cosa dobbiamo aspettare di Dio e che cosa no. Qual è la relazione tra la sfera politica e la sfera della fede, della Chiesa? Anche oggi questo libro è una fonte di definire bene la vera laicità e la competenza della Chiesa, la grande vera speranza che ci dona la fede. Quindi il libro è una presentazione della storia dell'umanità governata dalla provvidenza divina, ma divisa da due amori, e questo è il suo disegno fondamentale, la sua interpretazione della storia, che è la lotta di due amori. Amore di sé sino all'indifferenza per Dio, e amore di Dio sino all'indifferenza di sé, alla piena libertà da sé per gli altri nella luce di Dio. Questo quindi forse il più grande libro di Sant'Agostino, di una importanza permanente. Altrettanto importante è il libro De Trinitate, opera in 15 libri sul principale nucleo della fede cristiana, la fede in Dio trinitario, scritta in due tempi, tra il 399 e il 412, i primi 12 libri pubblicati all'insaputa di Sant'Agostino, che verso il 420, quindi 8 anni più tardi, li completò e rivide l'intera opera. Qui riflette sul volto di Dio e cerca di capire questo mistero del Dio che è unico, l'unico creatore del mondo di noi tutti, e tuttavia proprio questo unico Dio è trinitario, un cerchio di amore, e cerca di capire il mistero insondabile che proprio essere trinitario tre persone è la più reale, più profonda unità dell'unico Dio. Poi il libro di dottrina cristiana è una introduzione culturale all'interpretazione della Bibbia, in definitiva allo stesso cristianesimo. Il libro che ha avuto un'importanza decisiva nella formazione della cultura occidentale. Agostino certamente, con tutta la sua umiltà, fu consapevole della propria statura intellettuale, ma per lui era più importante che fare grandi opere di respiro alto teologico di portare il messaggio cristiano ai semplici. Questa sua intenzione più profonda, che ha guidato tutta la sua vita, appare da una lettera scritta al Collegio Evodio. A questo vescovo comunica la decisione di sospendere la lettura dei libri delle Trinitate. E perché? Perché, scrive, sono troppo faticosi e penso che possano essere capiti da pochi. Più urgente sono testi che speriamo saranno utili a molti. Quindi più utile era per lui comunicare la fede a tutti in modo comprensibile a tutti che non scrivere grandi opere teologiche. La responsabilità acutamente avvertita nei confronti della divulgazione del messaggio cristiano è all'origine di scritti come il De Catechizandis Rudibus, una teoria e anche prassi della catechesi, o il Psalmus contra partem donati. I donatisti erano il grande problema dell'Africa di Sant'Agostino, uno scisma volutamente africano, dicendo la vera Chiesa è quella africana, opponendosi all'unità della Chiesa, e con questo scisma ha lottato tutta la sua vita cercando di convincere che solo nell'unità anche l'africanità può essere vera. E per farsi capire ai semplici che non potevano capire il grande latino del grande retoro, ha detto: devo scrivere anche con errori grammaticali un latino molto semplificato, e soprattutto è questo salmo una specie di poesia semplice contro i donatisti, per aiutare tutta la gente che solo nell'unità della Chiesa si realizza realmente la nostra relazione con Dio per tutti e cresce la pace nel mondo. In questa produzione destinata a un pubblico largo, riveste un'importanza particolare la massa delle omelie, spesso pronunciate a braccio, trascritte dai tachigrafi durante la predicazione e subito messe in circolazione. Tra le omelie spiccano le bellissime narrazioni in Psalmos, c'è una interpretazione di tutti i 150 salmi e l'interpretazione del Vangelo di San Giovanni. Proprio la prassi di pubblicazione delle migliaia di omelie di Agostino, spesso senza il controllo dell'autore, spiega la loro diffusione e successiva dispersione, ma anche la loro vitalità. Subito infatti le prediche del vescovo di Ippona diventavano, per la fama del loro autore, testi molto ricercati e servivano come modelli anche per altri vescovi e sacerdoti adattati a sempre nuovi contesti. La tradizione iconografica, già in un affresco lateranense risalente al VI secolo, rappresenta Sant'Agostino con un libro in mano per esprimere la sua produzione letteraria, che tanto influenzò la mentalità e il pensiero cristiano, ma anche il suo amore per i libri, per leggere e formarsi con la grande cultura precedente. Alla sua morte non lasciò nulla, racconta Posidio, ma raccomandava sempre di conservare diligentemente per i posteri la biblioteca della Chiesa con tutti i codici, soprattutto quelli delle sue opere. In queste, sottolinea Posidio, Agostino è sempre vivo e giova a chi legge i suoi scritti, anche se, conclude Posidio, io credo che abbiano potuto trarre più profitto dal suo contatto quelli che lo poterono vedere e ascoltare quando di persona parlava in chiesa, e soprattutto quelli che ebbero pratica della sua vita quotidiana fra la gente. Sì, anche per noi sarebbe stato bello di poter sentirlo vivo, ma è realmente vivo nei suoi scritti, è presente su di noi, e così vediamo anche la permanente vitalità della fede per la quale ha dato tutta la sua vita.